Letture di Radio 24. Mentre in Svezia si riduce sempre di più il numero delle piscine miste, la Danimarca proibisce alle mamme di allattare in pubblico. Così, in nome dell'asservimento verso gli immigrati islamici, i paesi che un tempo erano i più liberali d'Europa stanno vivendo una rivoluzione sessuale alla rovescia. Il mondo è capovolto. E questa volta la crisi finanziaria non c'entra. A Copenaghen, meta sognata da tanti gallinacei latini e che già nel 1970 faceva da cornice al documentario La libertà sessuale in Danimarca, oggi alle mamme è vietato allattare in pubblico nei principali caffè. Il seno nudo fa scandalo. E a Stoccolma, capitale di quella Svezia che nel 1963 vedeva il diavolo Alberto Sordi mugolare davanti alle bellezze di Scinte, il municipio vuole estendere le ore di nuoto riservate alle donne, cioè vietate agli uomini, in alcune piscine pubbliche. Fino ad oggi, nei sobborghi più popolati da immigrati extracomunitari, i maschi venivano tenuti lontani dai tuffi per un pomeriggio alla settimana. E quel pomeriggio era ed è affollato da molte donne che fuori dalla piscina portano il velo islamico, che facciano così, che si tuffino in certe ore e basta, per inchinarsi a un principio rituale e maschilista che impone la separazione fra i sessi o per la semplice voglia di stare fra amiche senza trovarsi addosso gli sguardi dei gallinacei di ogni razza, è tuttora oggetto di discussione. Pare però che le donne imparino a nuotare prima e meglio. Secondo una recente indagine, nel 2009 il 29% delle iscritte a queste piscine sapeva nuotare a rana per 200 metri e nel 2011 si era ormai al 36%. Merito del bando ai maschietti? Non si sa. Si è pensato comunque di passare a due pomeriggi esclusivamente femminili. Ma la polemica infuria. La religione e l'occhiuto mullah non entrino in spogliatoio, dicono le lettere giunte ai giornali. E poi, perché discriminare i maschi? E perché diavolo, non deve esserci allora un pomeriggio solo per uomini? E ancora è sempre quell'altra domanda. Le cittadine svedesi di fede musulmana godono di una loro libertà personale, nuotando in quelle ore e basta, o rinunciano a un'altra libertà assai più importante? Il comune di Stoccolma cerca di far quadrare un cerchio e non vi riesce, anche perché molti istruttori di nuoto sono maschi e senza di loro niente rana o farfalla. Davvero la vita è più complessa di quanto sembra. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Luigi Offeddu, In Svezia, meno piscine miste, rivoluzione sessuale alla rovescia, dal Corriere della Sera dell'8 novembre. In occasione del 50° anniversario arriva nelle sale italiane la versione restaurata di Colazione da Tiffany, presentata in anteprima al recente Festival Internazionale del Film di Roma. La parte della protagonista è talmente legata alla figura di Audrey Hepburn che è difficile immaginare che le cose avrebbero potuto andare in modo diverso, come scrive Sarah Gristwood in un volume monografico appena pubblicato da Magazzini Salani. Eppure, inizialmente, Truman Capote, autore del romanzo dal quale è stato tratto il film, aveva pensato niente meno che a Marilyn Monroe. In quel periodo, la Monroe si stava allontanando da Hollywood, sotto l'influenza del suo matrimonio con Arthur Miller. Quando Colazione da Tiffany entrò in produzione, la Monroe dovette abbandonare il set di Gli Spostati per essere ricoverata in ospedale, perché abusava pericolosamente di sonniferi e alcol. Ma forse era quella combinazione di fattori che piaceva a Capote. Marilyn sarebbe stata assolutamente meravigliosa in quel ruolo, avrebbe detto in seguito Capote. Anche lei avrebbe voluto quel ruolo, tanto che aveva lavorato a due intere scene e me le aveva mostrate. Era terribilmente brava, ma la Paramount mi tradì e scelse Audrey. Il libro in realtà era piuttosto amaro e Holly Golightly era reale, un personaggio duro, niente a che vedere con Audrey Hepburn. Holly doveva avere qualcosa di commovente, di indecifrabile, caratteristiche che Marilyn aveva. Audrey è una vecchia amica e una delle persone che preferisco, ma semplicemente non era adatta per quella parte. Martin Juro, produttore del film assieme a Richard Shepherd, ricordava le cose in modo diverso. In seguito, raccontò che sul volo di ritorno da New York, dove aveva avuto un incontro cruciale con Capote, aveva incontrato una Marilyn Monroe incerta e disorientata, seduta nel sedile accanto al suo. Aveva sentito parlare di una certa Holly Golightly dai suoi informatori. Ma quando l'aereo atterrò, giuro, non era sicuro che la Monroe, dopo molti altri drink, sapesse che cosa fosse colazione da Tiffany. Ma la scelta di Marilyn era un po' ovvia. Abbiamo pensato che potevamo fare meglio, disse anni dopo Shepherd. E un paio di giorni dopo la questione divenne irrilevante perché ricevettero una telefonata da Paula Strasberg che diceva: «Non c'è alcuna possibilità che Marilyn interpreti quel ruolo. Marilyn Monroe non sarà una squillo, una prostituta». I commenti di Paula Strasberg anticiparono le prime reazioni della Hepburn e delle persone intorno a lei. Nessuno pensava che avrebbe interpretato il ruolo di una ragazza con una morale così ambigua. La Paramount non pensava che avrebbe accettato la parte perché era una signora troppo dolce e riservata, disse Shepherd. Black Edwards era d'accordo. Credo che la maggior parte del pubblico in quei giorni non potesse pensare a Audrey Hepburn come a una prostituta, una ragazza squillo, disse. E scommetto che anche dopo il film la maggior parte di loro non si sarà resa conto di quello che Holly fa veramente. Ma in realtà neanche Juro e Shepherd avevano mai considerato Holly come una squillo. Era una donna che resisteva a ogni definizione. E così, nonostante le alte sfere della Paramount dicessero loro che non avevano nessuna possibilità, non rinunciarono. Dopotutto, Audrey Hepburn era un'attrice che poteva cavarsela in qualsiasi ruolo. Era apparsa in teatro, in Ondine, in un costume di rete che creava l'impressione che lei fosse praticamente nuda e nessuno si era lamentato a causa di che cosa? Della sua classe? Della sua vulnerabilità? Della sua allure europea? Come disse di lei Billy Wilder, anche se diceva qualcosa di osé, il modo in cui lo faceva aveva una sorta di eleganza per cui era impossibile fraintenderla. Anni dopo, guardandosi indietro, la Hepburn avrebbe riconosciuto che interpretare Holly Golightly era stata una vera e propria rivoluzione per lei. Dopo così tanti film, non mi sentivo più un'attrice dilettante. Sapevo di avere sempre qualcosa da imparare, ma ho anche scoperto che potevo dare qualcosa di me stessa. Sapevo che questo ruolo sarebbe stato una sfida, ma ho voluto affrontarla. Audrey Hepburn era nata il 4 maggio 1929 a Bruxelles, da una famiglia di origine anglo-irlandese e olandese. La famiglia di sua madre era aristocratica, ma l'abbandono precoce del padre le lasciò quello che si sarebbe dimostrato un duraturo senso di insicurezza. La sua vita di allora doveva sembrarle inimmaginabile, quando guardava indietro dai giorni della sua celebrità. La Hepburn ricordava che i suoi fratelli mangiavano biscotti per cani, che i vicini di casa si nutrivano di bulbi di tulipano e che il pane era verde perché era fatto con i piselli tritati. Alla fine della guerra pesava 40 kg, per nulla sufficienti alla sua altezza di 1,70 m, e aveva l'ittero e i piedi gonfi. È quasi impossibile non pensare alla descrizione che Doc fa nel romanzo di Capote della piccola Lula May e di suo fratello. Ossa che spuntavano dappertutto, gambe così deboli che quasi non li reggevano, denti che ballavano al punto che non potevano masticare la farinata. È altrettanto difficile non pensare anche ai rifugiati dell'UNICEF, a cui la Hepburn si dedicò negli ultimi anni della sua vita. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Sarah Greenwood, Colazione da Tiffany, l'edizione ufficiale del 50° anniversario, Magazzini Salani Editore, 192 pagine, 22 euro.